America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. A car bomb exploded here in the heartland of the southern suburb, mainly in a car park near an Islamic center. Un'autobomba in Libano, un'autobomba esplosa a Beirut, nel quartiere Beir al-Abed, che è la roccaforte di Hezbollah. 53 feriti gravi, molta paura, non c'è una rivendicazione, ma si pensa che siano stati i ribelli siriani, una ritorsione contro Hezbollah, il gruppo militante libanese che si è schierato al fianco del leader siriano Assad contro i ribelli. Over the next year, another 34,000 American troops will come home from Afghanistan. This drawdown will continue, and by the end of next year, our war in Afghanistan will be over. Barack Obama, discorso sullo Stato dell'Unione, alcuni mesi fa aveva annunciato il ritiro delle truppe in Afghanistan entro il 2014. Il presidente aveva cercato di dare un'immagine molto positiva di quello che stava capitando in Afghanistan, un passaggio dei poteri molto pacifico in cui gli americani si ritiravano e continuavano a fare questo trasferimento di autorità alle truppe, all'esercito, ai militari, alla polizia afghana, e si percepivano delle tensioni con Karzai, con Hamid Karzai, il leader afghano, ma il presidente cercava così di dare sempre un'interpretazione positiva di una missione che secondo lui si stava concludendo con successo. Ebbene, queste tensioni, secondo il New York Times, sarebbero esplose in qualche modo. Il presidente è molto irritato, ha inviato un segnale forte a Kabul, sta considerando di ritirare del tutto le truppe, quindi di non lasciare nessun soldato americano in Afghanistan, una situazione dunque che resta comunque di tensione. Molti critici dicono che alla fine questa missione degli Stati Uniti in Afghanistan, non è stata poi così di successo come Barack Obama cerca di rivendicare. I think that the public is owed an explanation of the motivations behind the people who make these disclosures that are outside of the democratic. La sfida di Snowden continua, lo spione, come l'hanno definito alcuni, la persona che ha sfidato il governo americano rivelando al mondo che ci sono attività della National Security Agency di spionaggio su milioni di linee telefoniche, avrebbe accettato, secondo indiscrezioni prima comunicate e poi smentite da un funzionario russo, l'asilo politico del leader venezuelano Maduro. Però non è chiaro perché non ci sono ancora conferme e dunque c'è una battaglia aperta, nel senso che Barack Obama e comunque il suo governo vorrebbero catturare Snowden per portarlo davanti a un tribunale. Quindi una sfida anche questa aperta, con una delicatezza sul fronte cinese e russo, perché è chiaro, come diceva di nuovo il New York Times qualche giorno fa, che Cina e Russia, Mosca e Pechino si sono coordinate su questo passaggio da Hong Kong a Mosca di Snowden, cercando di imbarazzare il loro interlocutore americano. The decisions about who will govern Egypt will be made by the Egyptian people. Jay Carney, il portavoce di Barack Obama, intervenuto ieri sull'Egitto, ci sono segnali positivi, dice soprattutto in relazione al piano del governo ad interim per portare il paese a nuove elezioni dopo la deposizione del presidente Morsi avvenuta la settimana scorsa. Uno sviluppo di ieri è che c'è finalmente un nuovo primo ministro, El Beblawi, che è l'ex ministro delle finanze, un uomo di credibilità importante anche per quella che è una delle sfide più difficili dell'Egitto, quella del rilancio economico. E con El Baradei, che è stato il responsabile dell'Agenzia Atomica Internazionale, un'importante figura dal punto di vista della credibilità internazionale, che avrà un ruolo di numero due. Ma le tensioni restano perché il movimento della Fratellanza Islamica ha chiesto ai suoi seguaci di prendere le armi contro i militari che hanno deposto Morsi. Insomma, un quadro, quello che vi ho dato, molto complesso sul fronte della politica estera americana, un quadro che mette un po' in difficoltà Barack Obama, perché ci sono varie situazioni in cui si percepisce che l'autorevolezza degli Stati Uniti non è più quella d'un tempo. Sono vari episodi che, se li vediamo tutti insieme, dimostrano comunque che c'è una situazione difficile. Ho con me ai microfoni di America 24 Paolo Valentino, inviato del Corriere della Sera qui in America per un paio di settimane. Paolo, buongiorno, come buongiorno, stai? Mario, dicevi bene, cioè non c'è dubbio che in questo momento tocchiamo con mano le difficoltà del cosiddetto secolo post-americano e quindi le difficoltà crescenti per gli Stati Uniti di influenzare veramente, concretamente, il corso della politica internazionale, pur rimanendo l'unico paese al quale tutti chiedono di farlo. Questo è un problema, tra virgolette, secolare che riguarda gli Stati Uniti d'America, o è anche un problema, come dice qualcuno, di Obama, che forse non ha quella personalità aperta che gli consente di instaurare magari un rapporto amichevole, che ne so, con Putin, quando io l'ho visto al vertice, al G8, nell'incontro che hanno avuto ai margini del vertice britannico, insomma c'era una freddezza straordinaria fra i due. Io credo che Obama abbia un problema personale sul piano della politica interna, ma sul piano della politica internazionale il problema è il cambio di stagione, dove a mio avviso qualunque presidente americano avrebbe avuto delle difficoltà serie ad articolare una politica estera e una capacità strategica, cioè dire di influenzare gli avvenimenti da parte degli Stati Uniti. Uno dei temi centrali, io ne ho elencati alcuni, ma in qualche modo sono legati, per esempio il Libano, il Medio Oriente, la Siria, l'Egitto naturalmente, le primavere arabe. In questo momento domina l'Egitto, perché abbiamo visto che Barack Obama, insomma, in qualche modo ha cercato di barcamenarsi. In fondo credo, non so se sei d'accordo, ma credo che all'America tutto sommato faccia comodo che ci sia un passaggio di consegne, forse delle elezioni democratiche che possano portare un regime più secolare che religioso. Sei d'accordo? Sono d'accordo. L'Egitto ci mostra il paradosso di un paese nel quale gli Stati Uniti gettano ogni anno 1,5 miliardi di dollari tra aiuti militari e aiuti civili, in gran parte aiuti militari, e nonostante questo non riescono a influenzare gli avvenimenti. Nelle ultime 3 settimane, nell'ultimo mese, gli Stati Uniti sono stati spettatori più o meno impegnati di un gioco che loro sfuggiva. Hanno cercato di dire a Morsi che doveva moderarsi e che doveva ascoltare i militari, e questo non l'ha fatto. Hanno chiesto ai militari a loro volta di moderarsi e di non applicare la legge marziale, invece hanno fatto il golpe. Quindi l'Egitto paradossalmente sta mostrando plasticamente la mancanza di leverage, di influenza che gli Stati Uniti hanno in questa regione del mondo. Ecco, e dunque pensiamo all'Egitto che è davanti a noi e che quindi insomma ci interessa molto, perché significa futuro delle primavere arabe, significa stabilità nel Mediterraneo, è un po' abbandonato a se stesso e questo ci preoccupa. Quindi che percorso vedi? Un percorso positivo, ottimista, un percorso negativo? Che idea ti sei fatto? Ma nessun ottimismo fino a quando il paese sarà abbandonato a se stesso, e anzi la prospettiva reale, vera, del rischio di una guerra civile. Perché i fratelli musulmani non scompariranno così, la fratellanza è sopravvissuta a 60 anni di persecuzione di clandestinità, figuriamoci se basta un golpe dei militari, fra l'altro incerto, a emarginarla per sempre. Quindi l'evoluzione dell'Egitto deve preoccuparci molto. Io credo che comunque vada gli Stati Uniti e l'Europa, perché l'Europa ha un interesse in prima persona. Ricordiamo che l'Egitto fra 20 anni potrebbe essere un paese di 140 milioni di abitanti, impoverito e radicalizzato. L'Europa ha un interesse preciso a fare uno sforzo insieme agli Stati Uniti, a dare una mano agli Stati Uniti per cercare un minimo di stabilizzazione di questa pericolosissima bomba a orologeria che abbiamo alle porte di casa nostra. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Maria Carey si è slogata la spalla, pensate, poveretta, durante le riprese a New York di un nuovo video per il suo single Beautiful. Dunque voglio dedicare a lei la canzone del giorno augurandole una pronta guarigione. Maria Carey, Beautiful. Hop on the back of my bike, let the good wind blow through your hair. Would I act like that? And a smile so bright, oh, you're killing me, you know it ain't fair. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!